Umberto Fasseri, via Caligaris 23, saluto a VC Vercelli. C'è il signor Fasseri? Scusate se approfitto, c'è Fasseri? Oh, signor Fasseri, scusate, consegno tutta la posta e poi me ne scappo al sud dell'Italia, che non ce la faccio proprio, ci resta qua al nord dell'Italia. Signor Nicola Imbriaco, via Fratelli Rosselli 62, saluto a VC Vercelli. C'è il signor Imbriaco? È una raccomandata questa, deve firmare, eh? È partito subito, poi dice che le poste italiane non funzionano. È partito dal sud dell'Italia il 14 novembre del 2003, poi ieri 18 novembre 2003 sarà arrivato qua a Torino, ed ecco che questa mattina 19 novembre 2003 è arrivato qua a San Lucio, poi dice che le poste non funzionano. Signor Imbriaco, eccola qua la lettera, scusate se approfitto, consegno tutto e me ne scappo al sud dell'Italia. L'ultima lettera, signor Nicola Iannace, via Lungodora Baltea 67, San Lucio VC Vercelli. C'è signor Iannace? C'è o non c'è Iannace? Ma Nicola Iannace sono io. Chi mi scrive? Antonietta Iannace, mia sorella. E adesso voi ora mi chiederete: e da dove ti arriva questa lettera? Dal mio paese. E dov'è questo tuo paese? E adesso finalmente, dopo millenni, arriva la prima soddisfazione. Prima, se dicevi Lucania, ti dicevano: ah, Lucca, bella, ci sono stato. Oppure Lugano, ma è fredda la Svizzera, come faci a resistere? E tu là a spiegare dov'è la Lucania, che è a sud, assai a sud, quasi Africa. Poi finalmente capivano dov'è la Lucania e ti dicevano: ah sì, Lucania, sì, cosa vuoi di più della vita? Adesso finalmente non è più così. Dovunque ti trovi in Italia, addirittura all'estero, giuro, all'estero, mi è successo a me, a Berlino, ho fatto il cameriere per qualche anno, a Berlino mi hanno chiesto: ti dove essere tu? Lucania, Lucania. Scanzano Ionico, ya? Sì, proprio di Scanzano Ionico. Terzo Cavone, ah, Cavone, sì, sì, si dice proprio Cavone, giuro. Io sono nato proprio là, Scanzano Ionico, terzo Cavone, giuro, ya, ya, ya. Yam, finile fofes, dice mio padre. Un contadino di 73 anni, mio padre, che grazie a quel pezzo di terra a terzo Cavone ha fatto crescere e studiare 5 figli. Cioè studiare, teniamo il diploma. Lui, mio padre, è analfabeta completo. Però voi ora mi chiederete: mamma, che c'ha zecca tuo padre a terzo Cavone, che tu prima distribuivi la posta a Saluggia? E mo vi spiego. Che mio padre voleva che io scendevo, no? In Basilicata, perché io avevo proprio voglia di scendere in Basilicata, perché papà stava poco bene, la lettera diceva che stava poco bene, si sospettava un cancro al fegato a mio padre e mi voleva vicino, e poi io proprio volevo scendere in Basilicata perché mia sorella Antonietta stava incinta, stava al nono mese di gravidanza, stava per partorire, e poi volevo proprio scendere perché il 23 novembre del 2003 era previsto il più importante sciopero della storia della Basilicata per protestare contro il governo Berlusconi, che aveva deciso di installare in 448, senza neppure una settimana di studio, il deposito unico di scorie nucleari italiane proprio l'Angop, la terra nostra, Scanzano Ionico. Allora arrivai a Torino, comprai una girandola per il vento per il nostro nipotino che stava per nascere, presi il treno a Torino e fum, come un fulmine me ne schizzai nel sud dell'Italia. Me ne schizzai nel sud dell'Italia, come si può schizzare nel sud dell'Italia con i treni che teniamo oggi in Italia. Diciamo che dopo due giorni e due notti arrivai finalmente a Metaponto. A Metaponto strade bloccate, ferrovie bloccate, non si capiva niente, giuro. La Basilicata bloccata, mezzi agricoli da tutte le parti, studenti, universitari, scuole elementari, medie, asili, non si capiva niente. La Basilicata bloccata del tutto da 10 giorni, come ai tempi di Carlo Levi. Io feci vedere la lettera che mi mandava mio padre al paese. Papà me l'aveva mandato quella lettera, e gli agricoltori capirono l'urgenza di vedere a mio padre e mi fecero salire su un trattore agricolo e, ridendo, scherzando, bevendo vino sul trattore agricolo, mi accompagnarono a casa da mio padre. Arrivai a casa da mio padre mi disse: beh, scrivi subito la lettera a tua zia Maria che si preoccupa, Cristiana. Sì papà, mo la scrivo. Mo viaggio accattata a busta aerea o foglietta aerea, mo ci mettiamo a scrivere a zia Maria. Scrivi in gelo subito a tua zia Maria dell'America che se scorie atomiche nucleari non volimo qua per la terra nostra. Che chi l'ha fatta le scorie atomiche, quelle se le suca. Sì papà, mo mette la scrive. E mo la scrivo cazzo su 3 ore che si è venuto da Saluggia, futto la scrive sa cazzo lettera prima che Berlusconi venga a fare veramente un cazzo dei posti. Papà, la scrivo la lettera, ma la scrivo come dico io, eh. Ci scrivo che qua il pericolo in Basilicata è assai serio, che da un momento all'altro questo governo raccoglie tutte le scorie atomiche italiane, le mette nei fusti e le porta tutto quanto assieme, papà, goppa la terra a Toia, in un deposito nucleare che deve essere realizzato entro e non oltre il 2008. E mio padre: fammi capire una cosa, Nico, e sto deposito nucleare, sto governo Berlusconi l'ha da venire a faccare proprio sotto il culo nostro. Tiene ragione, papà. Il fatto è che questo governo ha visto che a 800 metri di profondità, sotto la terra nostra, Scanzano Ionico, c'è un grande strato di sale. E dove c'è il sale significa che non c'è l'acqua, il posto giusto dove mettere i rifiuti radioattivi. E vogliono mettere a 800 metri di profondità, in mezzo al sale, in mezzo a due strati di argilla, questi rifiuti. Guarda, ci pare mi trova vivo, disse mio padre. Ci pare mi trova vivo quando viene Berlusconi a mettersi schifezze in coppa alla terra nostra. O voglio guardare che da scena lo cambia Berlusconi a mettersi a roba schifosa sotto la terra, spero di mi trovare vivo, che non tenga niente alla panza, ma voglio vedere quando presento Berlusconi scende a mettersi schifezze. Papà, fammi toccare, santi Dio. Ma mi toccano tanto perché tu dici spero mi trovare vivo, tanto a te papà chi ti ammazza, ma io mi tocco perché io proprio papà non auguro a nessuno al mondo di trovarsi proprio faccia a faccia con Berlusconi o con Bersani, esattamente la stessa cosa. Domani 23 novembre 2003, disse mio padre, amma essi 180.000 persone che la mafia scattassi governanti di niente. Mo scrive la lettera a tua zia Maria, ma non la fa preoccuparsi a cristiana, eh? Papà, vedi come la voglio scrivere, vedi se ti piace. Cara zia Maria, cari cugini, spero che a raggiungere queste poche righe vi trovi tutti di ottima salute, come purtroppo non vi assicuro di noi tutti. Qua in Basilicata le cose stanno assai tristi. Non ne vogliamo scappare, tutti quanti insieme, con l'autobus in Argentina. Punto, Nicole. E santi Dio, Nicole. E non va continuamente comunista. Mia zia Maria, pensate che è partita, è la sorella di mio padre, no? È emigrata a Buenos Aires ed è partita nel 1951. È partita proprio il 31 maggio del 1951. È partita durante il periodo delle occupazioni di terre di tutti i braccianti agricoli italiani. Occupazione di terra a cui mio padre aveva preso parte con tutta la sua forza, tanto che teneva una fotografia di occupatori di terra sopra un camino e a chi ce la toccava. E zia Maria partì il 31 maggio del 51, ma mica voleva partire, zia Maria voleva rimanere sulla terra sua. La notte prima di partire, zia Maria andò a piantare Nunuzzolo de Rasa sottoterra, lo innaffiò, si ripromise che sarebbe ritornata l'anno successivo per sempre, ma non tornò l'anno successivo zia Maria, tornò molti, molti, molti anni dopo, tornò nel 1968, proprio per la nascita di mia sorella Antonietta, e l'ho vista una sola volta zia Maria, poi non l'ho vista più. Quando arrivò nel 68, subito, subito andò a vedere quella cerasa, la trovò alta. Zia Maria arrivò qua alla Trisaia di Rotondella in Basilicata, aprì la finestra. Pensate che credeva di trovare la zona agricola che aveva lasciata. Sì, agricola, eh. Pensate che la Trisaia di Rotondella, il tacco dell'Italia, no? Proprio sul Mar Ionio, tra Taranto e Rocca Imperiale, quel tacco, quel buco, l'Obertus. Beh, quella è una delle zone più agricole d'Italia, eh. Perciò si chiama Trisaia. Allora, come va già fa capire, con la parola aia si indica tuttora una zona in cui i contadini pesano il grano. Ecco, quella zona era così ricca di grano che ci volevano tre aie per pesare tutto il grano che mietevano i contadini. Ecco perché quell'area si chiama ancora oggi Trisaia, Trisaia, tre aie, per quanto grano pesavano i contadini. Zia Maria aprì la finestra, credeva di trovare la zona agricola che aveva lasciato, e invece nel 1968, su 110 ettari di terra fertile, nera, bella, avevano appena finito di costruire il centro nucleare Enea della Trisaia di Rotondella. Presero 84 barre di uranio dagli Stati Uniti d'America e ce li portarono in Basilicata. Non tutte 84, 82 le portarono in Basilicata, 2 le portarono alla casaccia di Roma, a 25 km a nord-est di Roma. Vicino al lago di Bracciano c'è un deposito nucleare. 2 le portarono là, 82 ce le lasciarono in Basilicata, ma le barre erano proprio americane. Avevano lavorato in un reattore americano che si chiamava Elk River. Ste barre erano così americane che se avessero potuto parlare barra avrebbero detto That's alright, per quanto erano americane. Le presero dall'America e ce le portarono in Basilicata. Ma i barre erano proprio americane a tutti gli effetti. Bella cosa, disse mio padre. L'americana se ne fatti come te loro dell'America e a noi in la Basilicata in Coppa Roma ne hanno portato la merda. Tieni ragione, papà. Questo deposito nucleare fu un regalo dello Stato italiano, ce lo regalò della Democrazia Cristiana, papà. Ma all'epoca nessuno disse niente, però, Ci portarono il pane. C'erano tante zone d'Italia povere, Garigliano, Latina, Srino Vercellese, Caorso, Saluggia, Rotondella. ci davano il pane, la gente aveva fame, pane, pane, pane, lavoro, lavoro, lavoro, ci davano il pane, ma quel pane era avvelenato. Che bello pane, Giria Len, papà. E mio padre, senza mai guardarmi negli occhi, disse solo: c'era fame, miseria, disperazione, morte. La morte era già con noi, Nico, i creatori morivano di malaria, di tifo, lassa fotte, Nico. Ti metti a cazzo di guai con il deposito che vuole fare Berlusconi da domani mattina, pensa a suo deposito nucleare che ne faceva negli anni 60. No papà, te le devo dire due o tre cose su questo deposito nucleare che ci facevano negli anni 60, papà. Sai che cosa è successo in questo deposito nucleare il 14 aprile del 1994? Motto di chi, papà? In questo deposito nucleare, a 5.000 metri dal Mar Ionio, abbiamo due cisterne d'acciaio, si chiamano West 1 e West 2. Queste due cisterne d'acciaio, papà, contengono 3 tonnellate di rifiuto liquido radioattivo. Papà, tu pensa che il rifiuto liquido radioattivo non si può tenere? La circolare 26 dell'Enea dice che i rifiuti radioattivi allo stato liquido vanno solidificati, cioè c'è una macchinario che lo fa, no? Li devi prendere dallo stato liquido e li devi trasformare allo stato solido, perché se sono trasformati allo stato solido li metti nei fusti e li tieni maggiormente sotto controllo, se invece rimangono allo stato liquido basta un niente, papà, evapora un po' di calore e evaporano in cielo, cadono in terra e sono come l'olio, se infilano nelle falde acquifere, ecco perché vanno solidificate. E pensa che vanno solidificate e noi invece ne abbiamo 3 tonnellate di rifiuto liquido radioattivo a 5.000 metri dal Mar Ionio. E sai a quanto ammonta, papà, il potenziale radioattivo di queste 3 tonnellate di liquido, papà? 30.000 Curie. Nessuna paura, il Curie è l'unità di misura del radioattivo, tipo il litro di vino. Allora, papà, per ne capire un esempio. Negli anni 70 in America evaporarono nel cielo 18 Curie radioattivi. 18, papà, dallo stato liquido a vapore. Dall'America, per questi 18 Curie radioattivi, chiusero la centrale atomica, gridarono al disastro nucleare, papà, per 18 Curie radioattivi. Noi invece abbiamo un potenziale di 30.000 Curie e nessuno dice mezza parola. Ma che vergogna, papà! In più, papà, queste due cisterne sono scadute. Le misero a rete c'è un timbre, papà. Valenza, 20 anni. Sono state messe nel 68, nel 88 andavano elevate i cazzi di cisterne, papà. Sono scadute da più di 20 anni, tanto che il loro livello di sicurezza è completamente finito. Ecco perché una delle due cisterne il 14 aprile 1994 si è pertusata e il liquido radioattivo è uscito fuori e si è depositato in una cella di calcestruzzo. Ma, magistratura di Matera, ma le due cisterne vanno messe in sicurezza, papà, questo bisogna fare, mettere in sicurezza. Tu papà, sai come finì il processo nel tribunale di Matera per la mancata solidificazione di queste tonnellate di liquido, papà? Un mese di reclusione per due alti dirigenti dell'Enea. Un mese che poi finì a niente, un mese. Papà, tu ti ricordi quando io fui preso a faticare dentro al deposito nucleare, che mi presero, no? Che cominciai a lavorare nel deposito nucleare come operaio. Scopavo a terra, addetto alle pulizie. Ti ricordo o non ti ricordo, papà? E come che non mi ricordo? Andai a piangere da un senatore del Partito Socialista per farti trasaffaticare là. E là rimanevi a faticare se non ti intrufolavi in da cazzi che non erano i tuoi. Papà, noi chiedevamo la sicurezza, solo sicurezza. Quando noi operai andavamo a scopare vicino a queste tonnellate di liquido radioattivo, dicevamo ai dirigenti dell'Enea: ma vedete che si massa è preoccupato di scopare vicino a tanto pericolo? Sai che ci dicevano i dirigenti dell'Enea, papà? Ci dicevano: ma che cazzo vi lamentate? Che a Saluggia, vicino Vercelli, a Dofazio Pustiere, papà, ne hanno 20 di tonnellate di liquido radioattivo e 53 barre di uranio in una piscina bucata, e è l'acqua della piscina con le barre va da tutte le parti, si infila nelle falde acquifere e poi noi ce la ribeviamo, tanto che 3-4 mesi fa una signora in località Brenne ha trovato l'acqua radioattiva nel pozzo della sua masseria. E avevano ragione i dirigenti dell'Enea, papà, a Saluggia la situazione è ancora più grave, perché ci sono sti 53 barre di uranio e 20 tonnellate di liquido radioattivo a 50 metri dalla Dora Baltea, un affluente del Po, papà. Cosa ci ha paura, papà, ottobre del 2000? L'acqua che cadde dal cielo fu così tanta, tanta e tanta acqua che la Dora Baltea si ingrossò, straripò l'acqua, papà, della Dora Baltea. Arrivò vicino al deposito nucleare. Se aveva la forza quest'acqua ad arrivare al deposito, di pigliarsi le cisterne, si contaminava con quell'acqua radioattiva e tutta la pianura padana, e nessuno dice mezza parola, papà. Ma che vergogna, ma che vergogna, ma quale lettrazia Maria? Maria, papà. Oggi scrivi i manifesti, la gente che sotto la Camera dei Deputati, sotto Senato, governanti farabutti che non fanno un cazzo la mattina alla sera, occupato queste cazze cisterne, stronzo a merda. Tu non scrivi niente, capito? Dice mio padre, vedi che ti sparni in Italia per queste cose, basta, falla finita, trimi tanta cazza qua con deposito nucleare che da fa Berlusconi da domani mattina, pensa al suo deposito nucleare anni 60, basta, falla finita, Nico. E no papà, te la devo dire l'ultima cosa su questo deposito nucleare. Papà, in questo deposito nucleare che abbiamo a Rotondella, provincia di Matera, c'è un tubo che parte dal deposito nucleare, si fa 5.000 metri sotto la campagna agricola a 50 centimetri di profondità e sbuca nel Mar Ionio dove getta rifiuti liquidi radioattivi, 25 metri cubi all'ora di liquido radioattivo. Papà, questo tubo a marzo del 1900, tu mi ci portavi sempre a pescare, papà. Tu ricordi su tubo? Tu li vanno a pescare proprio con coppu tubo, che dice che i pisci sotto a quello tubo erano più grossi. Mi portavi con la barca, te ricordi papà? Eravamo in coppu tubo, mi dicevi calati Nico, io mi calavo e in apnea a 3 metri di profondità andavo a pescare e in apnea vedevo proprio i scorfani grossi quando una scarpa, le sogliole grosse quando una bagnarola, enormi papà. E ti posso dire a distanza di 20 anni papà che non ero io bravo a pescare i pesci, io aprivo la busta di plastica e i pesci solo solo se ne trasiene da niente la busta, non ce la facevano proprio più e sta sotto a quello tubo. Io pigliavo la busta piena di pesce, salivo a galla che non ce la facevo più a respirare, ti ficcavo la busta piena di pesce sopra la barca, tu la guardavi felice perché quel pesce te l'andavi a rivendere ai ristoratori della costa ionica, papà. E io attravagliato dal freddo, appoggiata la barca con mezzo corpo da mare, ascoltavo che tu cantavi al barcarolo romano la canzone che te l'era imparata alla cecchignola dove avevi fatto il militare. Papà, questo tubo a marzo del 1993 si pertuse. Il liquido radioattivo esce dal tubo e invade la campagna agricola. I dirigenti dell'Enea, papà, non dissero manco mezza parola sulla perdita di questo tubo. La magistratura lo seppe, aprì un'inchiesta. Responso: il liquido che esce dal tubo è altamente radioattivo. I due lavoratori che andarono a prelevare quella terra e la sabbia del mare per analizzarla in laboratorio, Nocella e Mazziotta, morti tutti e due di cancro alla tiroide nell'arco di 5 anni. Il giudice che aprì quell'inchiesta, Nicola Maria Pace, papà, dopo una settimana stava a Trieste. Il giudice, papà, sequestrò il tubo. Disse: togliete il tubo dalla campagna agricola, toglietelo dal mare, è pericoloso, è radioattivo, è incidentato. Toglietelo, lo disse a marzo del 1993. Secondo te, papà, l'hanno levato quello tubo? Hanno levato tubo, papà. Papà non l'hanno levato. Sta ancora là, giuro, sotto la campagna agricola. Non mi crede? Non sapevi che non mi credevi, papà. Te l'ha già portata la fotografia. Eccotela qua la fotografia. Guarda qua il tubo, guarda. Ovvio il tubo. Ci hanno messo pure le ciatte di cemento vicino al tubo, così le eliche dei motoscafi non lo possono rompere. E guarda il gabbiotto, papà. Questo gabbiotto qua, guarda. Questo gabbiotto, papà, è proprio sul comune di Rotondella. È stato realizzato senza nessuna concessione edilizia. È in coppo gabbiotto, papà. Guarda, i liquidi arrivano in do gabbiotto radioattivi e poi vengono filtrati leggermente e vanno nel mare. 25 metri cubi all'ora, papà. E su questo gabbiotto, papà, non c'è nessuno simbolo pericolo nucleare. Ci andrebbe messa l'ordinanza del giudice Nicola Maria Pace di sequestro? Niente, non c'è niente, papà. Ma dico, ma una mamma che porti i figli a fare il bagno, papà, io ho trovato i bambini con le mani che giocavano su questo tubo, ragazzi che si tuffavano da questo gabbiotto, papà. Un nonno che porta i figli, i nipotini, a giocare in coppa a spiaggia, con i paletti, si cella. Da sapere quel nonno che i nipoti zombrano in coppa un gabbiotto collegato a uno dei depositi nucleari più pericolosi d'Europa? No, non sapere niente, papà. Per i nostri figli, per i nostri nipoti, non c'è favola. Non ci sono palette secchiali, non c'è niente, è morto tutto. Per i nostri figli, papà, c'è solo rischio di contaminazione e di morte. Già c'è scrivere una lettera a zia Maria per la Madonna Santissima, da parlare tutto bruculino per tutti i schifezzi che ne stanno mettendo nel mare, ma mica solo nel mare, papà. Tu pensi che torno all'Italia, da Genova torno fino a Venezia, hanno affondato 59 navi cariche zeppe di rifiuti tossici e radioattivi. Questa è la verità, papà. 59, lo dice la Lloyd Adriatic. Una società, la Lloyd Assicurazione, una società che aveva assicurato 6 navi, gli ultimi avvistamenti sotto Livorno, sotto Napoli, Amantea, Cetraro, Maratea, Metaponto. Questa è la verità, Molfetta, questa è la verità, papà, ma mica solo nel mare, papà. E pensa, papà, che gli americani, quando sono sugliuti dalla Bosnia e il Kosovo, hanno lanciato, come se ne tornavano a casa che era finita la guerra, tutte le bombe all'uranio che avevano, le hanno lanciate nel mare Adriatico e stanno tutte là, coppe i fondali, bombe piene zeppe di uranio arricchito, ma mica solo nel mare, papà, anche in coppa alla terra ferma, dovunque c'è un deposito nucleare, dovunque c'è una ex centrale atomica, c'è il rischio di contaminazione e di morte, dovunque c'è un poligono di tiro degli americani o degli italiani a Latina, alla Maddalena, a Villa Puzzo, al Salto di Quirra, dovunque sparano l'uranio, nascono l'8% in più di bambini malformati, il 10% in più di mortalità tumorale in Italia, nessuno dice mezza parola, papà, ma che vergogna, ma qua la lettera zia Maria, e basta, e falla finita, come sta facendo la testa tanto, non mi sento buono, falla finita, basta, non ce la faccio più a sopportarsi, tenimi tanta cazza a cuore, poi che voglio fare per scuola domani mattina, piazza stata, basta, domani c'è pure ospedale, basta, non mi sento buono, fa male la capa, la panza, basta, Nico, basta. Sì, papà, scusa, non parlo più, ti manca mezza parola a sette, papà. Non parlo più, scusami. Papà, vogliamo parlare del deposito nuovo? No, che se vogliamo parlare di questo deposito nuovo, dobbiamo dire che questo deposito nuovo, questo governo Berlusconi ce lo vuole fare proprio per legge. Hanno approvato proprio una legge, l'hanno approvata il 14 novembre del 2003, mentre tutti gli italiani col cuore a pezzi quella notte aspettavano il ritorno dei carabinieri uccisi a Nasiriya, loro erano là che scrivevano la legge di notte nel Parlamento italiano. Che poi, pensa papà, che questa legge l'hanno chiamata numero 314. Sì, è un numero della legge, è 314. Sì, papà, l'hanno fatto in onore a Pitagora. Che quello è Pitagora, papà, ha scritto un teorema che dice raggio per 3,14. E il governo Berlusconi ha scritto un decreto legge che dice raggiro per 3,14. La cosa non cambia, papà. Che poi, papà, pensa che le prime righe di questo decreto legge dicono: è così grave il pericolo che i terroristi possano bombardare le scorie atomiche italiane, che l'unico modo per non far fare le scorie atomiche italiane, per non le far bombardare, consiste nel prelevare tutte le scorie atomiche, metterle nei fusti e portarle tutto quanto insieme, papà, in coppa alla terratoia, in un deposito nucleare che deve essere realizzato entro e non oltre il 2008. E mia mamma era... No, non era morta mia mamma, si chiama Era di nome. Sì, come si poteva chiamare mia mamma? Si poteva chiamare Trisha, Valentina, si chiama Era, come una dea, perché mia mamma è nata piccola, malnutrita, proprio vicino al tempio di Era, un tempio antichissimo, ce lo vennero a fare i greci nel VI secolo avanti Cristo. Mia nonna mieteva per qualche padrone vicino al suo tempio, bluff, e nacque mia mamma piccola, e la chiamarono come la dea, Era, ma senza l'H. E allora mia mamma era che dice: tu non le scrivi la lettera, Nico, non le scrivi questa lettera a tua zia Maria. Tua zia Maria dell'America è partita tanti anni fa, non le scrivi la lettera. Venne a sapere tutto secondo Brut dell'America. Io sto mora cristiano, non le scrivi la lettera. E mio padre all'altro lato del tavolo non la scrive la lettera, va a sapere, non la scrivi. Se venne a sapere il secondo che tenim dopo il mondo dalla Lombardia vicino a Roma dalla Basilicata la Safut, se venne a sapere tutti questi schifezzi in terra, addio commercio di fragole e mandarini, papà, io me ne fotto commercio di fragole e mandarini, io la lettera zia Maria la scrivo e basta, tu non scrivi niente, capito? Mio padre si alza dalla sedia e mi comincia a inseguire, torno al tavolo nel tentativo di strapparmi la lettera dalle mani. Papà, io la lettera la scrivo e basta, hai capito? Non la scrivi, cazzo di lettera, non ne voglio lettera, assa fut, ma faccio scrivere questa lettera a zia Maria da tua sorella Antonietta, che lei tante schifezze, non le scrive papà, perché non le sa, e invece le deve sapere, è incinta, non ho mesi di gravidanza, deve sapere papà, il figlio che Italia trova, dammi sta cazzo di lettera, non mi fa rabbia, dammi su foglio, non voglio la lettera, spezza la schiena, dammi su foglio, non te lo do che lo voglio, dammi su foglio, guarda quando formicolo in coppa siamo mattonello, guarda quando formicolo in coppa siamo mattonello, guarda che disgrazia, tutti si formicolo in coppa le mattonelle, passa su a fuoco. E mia nonna Rosa è una contadina di 93 anni che ha avuto 4 ictus che l'hanno rintronata del tutto, è paralizzata e da 4 anni sta seduto su una sedia che non si muove mai, vicino al camino, E mia nonna non fa altro che vedere formiche in coppa alle mattonelle. Allora ciuffatoci i ciafoghi di ferro che teniamo vicino al fuoco, tira mazzate in coppa alle mattonelle nel tentativo di uccidere le formiche che vede solo dalla capasoia, e intanto le mattonelle se ne cadono a pezzi sotto i colpi di una contadina di 94 anni che ancora ringraziando di Dio mia nonna tiene una salute di toro che ha atca nucleare, mia nonna. Mia nonna è abituata alla terra. Insieme a tante altre contadine, agli inizi del Novecento lasciò zone povere dell'Appennino meridionale e si trasferì sul Mar Ionio per la terra, che era assai fertile la terra. E mio padre, dall'altro lato del tavolo, ma non è di cazzi ciuti che Scanzano Ionico ancora nel 1900 non c'era ancora, che è diventato comune nel 1974. Lascia, fottono, la scrivere l'elettronico, non mi fa arrabbiare, dammi su fuoco. Papà, è inutile che mi corra appresso la lettera, scrivere, basta, non mi fa arrabbiare, dammi su fuoco. Nella puttana, dammi sta tietta, sti cisterna, appresso la foto, dammi se cazzo di foglio, dammi su foglio, non voglio la lettera. Oh, basta. Che sei venuto a fare da Saluggia? Aiutare papà o a fare il comunista? Rivoluzionario? Si è aperta questa porta, è entrata mia sorella Antonietta, ragioniera. Mia sorella è incinta, sta al nono mese di gravidanza. Si è sposata con un sardo. Questo sardo si chiama Lussu, mio cognato si chiama Lussu. E mio cognato prima ha combattuto per non far costruire il deposito nucleare in Sardegna. Poi, appena si è sposato con mia sorella Antonietta e se n'è venuta a sta qua a Scanzano Ionico, sta combattendo per non far qua a Scanzano Ionico. A dove a Lussu va il deposito? Ci vorrei di sì, Lussu, ormai sei 8 anni in Siberia, a Arcore, da qualche altra cazzo di parte, per favore. E mio padre ha ciuffata la lettera che non potrebbe mai leggere perché è analfabeta completo, toccandosi la panza dolorante, mi dice: ma dimmi una cosa, Nico, ma veramente il suo governo Berlusconi può fare un deposito nucleare sulla terra nostra? 350 ettari di terra fatta a deposito nucleare e non dice manca una parola alla popolazione che ci sta sopra. Papà, la terra te l'espropria, fanno che vogliono loro. Sta tutto a questo generale, papà, un generale di destra che si chiama Carlo Jean, ex generale della NATO in pensione, che dirige, papà, una società che si chiama Sogin, che è l'unica società che per conto dello Stato italiano si occupa di nucleare in Italia. E tu pensa, papà, che sto generale Jean, solo per iniziare la costruzione del deposito ci hanno messo a disposizione 6.000 miliardi di vecchie lire. E mio padre, 6.000 miliardi di lire. Ah, faccio tu cazzo. Hai ragione, papà. Tu pensa che questo generale è libero di trasportare su mare, su terra, scorie nucleari? Tu pensa che può realizzare da domani mattina, secondo il decreto legge 314, un deposito nucleare su 350 ettari di terra e non deve neppure fare la domanda alla sovrintendenza archeologica? E mio padre, ma come? Noi dell'Italia per allargare un funustriello andiamo bagna, ma fa la cazzo la domanda alla sovrintendenza? Suo generale può fare da domani mattina un deposito nucleare in coppa 350 ettari di terra e deve fare la domanda alla sovrintendenza. Papà, com'era bello che ti facevi il generale pure tu? Non vuoi fesso quando si parla a serio, Nico. Dimmi una cosa. Ma sto generale Gian, è possibile che non è controllato da nessuno del governo italiano? Cioè, il governo italiano non controllo generale. Berlusconi non controllo generale. Ah sì, papà, è chiaro che lo controlla. Ha nominato il capo di gabinetto del Ministero dell'Ambiente, che si chiama Paolo Togni, che deve controllare quello che fa il generale Gian e la società Sogin che dirige. Ah oui. Allora il suo capo di gabinetto controllo, generale. Sì, papà, ma sai qual è il problema? Che questo capo di gabinetto del Ministero dell'Ambiente, che si chiama Paolo Togni, che deve controllare il generale Jean e la società Sogin che dirige, è nello stesso tempo vicepresidente della Sogin, cioè il braccio destro del generale Jean. Quello che è pagato dagli italiani è anche quello che deve essere controllato. Come si chiama il suo cristiano, Nico? Togni, papà, Togni. Si chiama come a quello di un circequestro. Non si capisce più niente dell'Italia. Che vergogna. Ma che vergogna di nazione, di niente. Che vergogna di paese. Io sono stato bracciante agricolo. Tengo ancora la terra sotto le unghie. E come a me tanti braccianti agricoli italiani addormono in coppa alla terra la notte, in coppa alle piazze negli anni 50. Addorma pendere di vierna d'estate, aspettare che il padrone ci veniva a bussare col bastone all'alba sul petto per darci mezza giornata di fatica. In cambio di niente, un pugno di farina, 2 dita d'olio, noi a sperare tutta la settimana. Terra, terra, questa era la parola. Dovevi zappare la terra. Quale scuola? Non ce n'era scuola. Terra! O zappavi la terra o emigravi. Emigrazione, questa era la parola. Emigrare. O zappavi la terra dei padroni. Ma la terra della terra mica era la nostra. La terra era dei latifondisti. Eri di quelli che tenevano tante e tante e tante. Allora o zappavi la terra dei latifondisti o emigravi. Oppure a cominciamo a occupare le terre dei padroni. Questa era la terza soluzione. I braccianti agricoli italiani nel 46-47 a cominciare a marciare sulle terre dei padroni. Marciavamo sulle terre dei padroni per dare da mangiare ai figli e andavano avanti le femmine. Le femmine con la camicia bianca aperta sul petto, un bambino da allattare in un braccio, in un altro una falce affilata, e noi arreta le femmine con grano nel pugno chiuso, grano da seminare, grano. Arrivavamo sopra le terre e piantavamo le zappe e le bandiere rosse, guai a chi ce la toglieva la terra, era la nostra la terra, e davamo da mangiare ai figli. Con quella terra avevamo un tale rispetto della terra che ogni solco di terra teneva un nome per quando riconoscenza avevamo per la terra che ci dava da mangiare. E arrivavano i carabinieri, contadini contro carabinieri, contadini contro figli di contadini, contadini contro carabinieri. E se qualcuno dei contadini protestava alzando la zappa o la bandiera rossa, i carabinieri erano costretti a sparare. E così hanno sparato, e il sangue dei contadini, pulito, onesto della fatica, bagnato il giallo del grano appena mietuto, i contadini sono morti a vicino Piacenza, a Padova, sono morti nell'Agro Romano, sono morti a Melissa in Calabria, ma sono morto pure qua in Basilicata la notte del 14 dicembre 1949. La polizia di Scelpa scesa da Roma sparò sui contadini che con le fiaccole accese a Montescaglioso andavano di notte a occupare le terre dei padroni. Spararono e uccisero Giuseppe Novella alla spina dorsale, e molti maschi finirono a rete alle sbarre in galera per aver occupato le terre. Molte donne, ragazze a 15-16 anni che davano da mangiare ai figli con la terra, finita in galera con la terra. Nunzia Suglia, Mariannina Menzano, Anna Avena, Cenzina Castria, e molti uomini finiti a rete alle sbarre per la terra. Minguccio Giannace, Chiellini e tanti altri ancora in galera con la terra sotto le scarpe a guardare la luna di notte con i figli a casa in galera per aver occupato le terre dei padroni. Tutto questo per la terra, Nico. La terra. Com'è bella la terra, Nico. La terra è buona. La terra è come un monumento, la terra ci dobbiamo dare da bere e basta, la terra. E dopo tanti e tanti anni di lotta di tutti i braccianti agricoli italiani, lo Stato italiano si è cominciato a ricordare di noi, tagliava la terra a piccoli pezzi e ce la dava ai contadini. 4, 5, 10 ettari a testa, però era troppa poca. Non ce la facevamo, e non c'è un barena sta uno insieme all'altro. E allora molte hanno venuto alle terre per far studiare i figli. Lo Stato italiano si scordò dell'agricoltura. Lo Stato italiano, quella riforma agraria fu finta. La riforma agraria in mano alla Democrazia Cristiana fu finta. Ste cose sacce pure che sono analfabeta. Me la giù un barenne delle chiazze, fuori dei cristiani che parlavano. La riforma agraria dello Stato italiano fu finta. Lo Stato italiano pensava all'industria, i nostri governanti pensavano all'industria. Se volevi aprire un'industria ti davano 7-8 miliardi a fondo perduto. Se volevi tenere una vacca con 5 ettari terre non ti davano niente, niente. Lo Stato, i governanti vogliono fare soldi, aprivano l'industria chimica, la chimica, la lavavano dalla Francia e dalla Germania e ce la portavano in Italia, la chimica, chimica, i nostri governanti erano collegati all'industria della chimica e facevano affari e mettevano soldi nella sacchetta, la chimica, andate a vedere l'industria chimica italiana che fine ha fatto, l'hanno portata a Porto Marghera la chimica, l'hanno portata a Crotone, l'hanno portata a Augusta, a Gela, a Manfredonia, a Brindisi, nella pianura Pontina, andate a vedere la chimica italiana in Valbasento, a Tito Scalo, che fine ha fatto la chimica italiana? Ferraglia, ferraglia contaminata e arrugginita su terra fertile, nera, bella. E lo Stato italiano si scordò dell'agricoltura e pensava all'industria chimica. Pensava all'industria. E allora 7 milioni di braccianti agricoli, 7 milioni di braccianti lasciarono zone povere dell'Italia e andarono in tre città del nord dell'Italia a fare gli operai. alla catena di montaggio appesero le loro anime. E io non sono voluto mai parte dalla terra mia, mai. E tengo solo stupidezza di terra. E con questa terra ho faticato, ho mangiato, ho fatto crescere i figli. E non ci sarà nessuno generale o già nessuno governo italiano che mi leva la terra. Dopo 50 anni di abbandono, se ricordo, non è nata voto di noi e ne viene a portarsi i schifezzi sotto la terra. Venite in coppa la terra, governanti di niente, vi aspettiamo in coppa la terra. Buffoni di niente, mettete le scarpe pulite in coppa la terra bagnata, vi aspettiamo in coppa la terra umida, venite in coppa la terra, buffoni governanti di niente, vi aspettiamo con una poesia di Rocco Scotellara sto viaggio, non con le bandiere e le zappe, vi aspettiamo con le ruspe, le tre beatrici, una poesia di Rocco Scotellara che noi braccianti meridionali analfabeti non l'eravamo imparata a memoria sta poesia, e mietevamo il grano e dalla Puglia, la Calabria, la Basilicata con sta poesia, comunicavamo tra braccianti e braccianti, vi aspettiamo con sta poesia di Scotellaro, questa poesia dice: sradicarmi, sradicarmi, sradicarmi, la terra mi tiene, la terra mi tiene forte, e la tempesta se viene mi trova pronto. Boom, boom. Caddi a terra morto. Io giuro, io caduto a terra morto, svenuto, morto per 5 minuti. Mio padre a 73 anni aveva urlato per un quarto d'ora come un pazzo ed era fresco come un gallo all'alba, e io a 40 anni che ero stato a un lato a ascoltare a mio padre svenuto a terra morto, morto con mia mamma, mio padre, mia sorella Antonietta, che mi davano piccoli schiaffetti in faccia per farmi riprendere. Mi svegliai grazie a mia nonna: guarda quanta formicola in coppa assieme a Tonel. Mi alzarono da terra, mia mamma andò a prendere una bottiglia di limoncello fresco dal frigorifero, mi fece sedere su quella sedia vicino al tavolo con la stofarola dove lei cucinava la pasta, massettella vicino al fornello, mi mise un po' di limoncello fresco nel bicchiere, dice: te vivi tu so poco di limoncello che molto passi, i limoni sui nostri, vivi. Ma sei sicuro che i limoni sui nostri? Vivi che sui nostri. Non è che se il limone l'aiuta a cogliere un coppo YouTube, un po' scemo vivo. Mio padre era seduto a sinistra, mia mamma poco più in là a destra, vicino a me c'era la stofarola della pasta col fornello, e mio padre disse: Nico, ma sei tutto giallo in faccia, tu tieni qualcosa, dimmi la verità, tu tieni qualcosa, Nico? Mia mamma seduta all'altro lato del fornello a gas dice: tu tieni qualcosa? Io non sapevo se ce lo potevo dire a mia mamma e mio padre quello che tenevo veramente. Nico, tu tieni qualcosa? Dica sotto a mamma, dimmi la cosa come tieni, perché sei venuto in terra per 5 minuti? Tu tieni veramente qualcosa? Dilla a mamma se tieni qualcosa. Allora io, per uscire da quella situazione brutta, ci dissi a tutte e due, mia sorella Antonietta che era dietro, ci dissi: mamma, papà, Antonio, voi sapete che cos'è l'energia nucleare? Mio padre disse: ma che c'azzecca l'energia nucleare che tu sei caduto in terra morta? Dimmi la cosa con me, Nico, tu tieni qualcosa? Dimmi la cosa con me. Mamma, papà, statevi tranquilli. Mamma, non mi è successo niente, ero stanco, questo è tutto, perciò sono svenuto. Allora, mamma, papà, io vi voglio parlare dell'energia nucleare. Statemi a sentire. Mamma, quello che mi sono sentito io, cadendo in terra morta, è collegato all'energia nucleare. Allora, mamma, papà, col nucleare si possono fare due cose: l'elettricità o la guerra. Io vi voglio parlare dell'elettricità. Allora, papà, mamma, ma sento buono. Papà, quando tu cammini sul lungomare, no? È notte, con la bicicletta stai. Come fai per far picciare la lampadina della bicicletta? E mio padre: che metto la dinamo in coppa a ruota innanzi, pedalo, a ruota gira, gira, gira, veloce, gira, carica la dinamo si carica di energia e si appiccia la lampadina. Bravo papà, questo è il modo per fare l'elettricità nel mondo. Allora, il primo modo per fare l'elettricità si faceva con l'energia idroelettrica, funzionava con l'acqua, sarote innanzi alla bicicletta che aveva caricato la dinamo. Come ti ha già fatto capire, papà? Ah, prendiamo la girandola che ho comprato per nostro nipote che sta per nascere. Allora, se piglia sta girandola e si mette un coppa a una... Si mette sotto una cascata d'acqua, no? Si mette sotto questa cascata d'acqua, una diga, allora l'acqua cade sulla girandola, cade pesante sulla girandola, fa girare la girandola che ha rotto innanzi alla bicicletta, gira grazie all'acqua che cade a piombo, gira, gira, gira, gira, gira, gira, carica la dinamo, via l'elettricità nelle case delle persone. Però purtroppo, mamma, papà, c'è poca acqua sul pianeta, non diene acqua per far girare la girandola, se non diene acqua devi trovare un'alternativa. Ed ecco che i grandi industriali del petrolio ti inventano l'alternativa, l'energia termoelettrica. Mamma, stiamo a sentire in che consiste. Papà, allora, pigliamo la stofarola, ecco, guarda che bella stofarola che tiene, mamma. Pigliamo questa stofarola dove tu cucini la pasta. Allora, dentro questa stofarola, metti una stofarola qua. Questa stofarola ha una stofarola di 30-40 metri. Dentro questa stofarola già cominciano a gettare l'acqua, acqua, tonnellate di acqua. Ci mettono il coperchio sopra, sotto ci mettono il petrolio, tonnellate di petrolio. Sopra la stofarola ci mettono la girandola, papà, come la ruota innanzi alla bicicletta che deve girare grazie al vapore acqua che viene da sotto alla stofarola. Allora, e deve caricare la dima. Allora, papà, bruciano il petrolio. O il petrolio si appiccia, riscalda l'acqua, riscalda la stofarola, no? Imboca il petrolio, imboca la stofarola, l'acqua si riscalda. Mamma, quando tu cucini la pasta e l'acqua arriva a 100 gradi, che succede? E mia mamma, quando arriva a cucinare l'acqua, l'acqua arriva a 100 gradi, cupirci, schizza come un grill, e il vapore acqua esce, mi abbraccio tutto il fornello. Brava mamma, la stessa cosa con l'energia termoelettrica. Solo che invece di far uscire il vapore acqua, lo mettono dentro un tubo d'acciaio e portano il vapore acqua che esce a 100 gradi direttamente sotto la girandola. Esce a pressione il vapore acqueo verso sopra, in alto, tocca le palle della girandola, sale e tocca le palle della girandola, gira, gira, gira, gira, la girandola gira veloce, carica la dinamo, via l'elettricità nelle case delle persone. Però purtroppo, mamma, papà, devi avere molto petrolio per far girare la girandola, per imbocare l'acqua, no? E il petrolio costa assai oggi, figuriamoci, negli anni 70 ci fu la più alta crisi petrolifera. Ed ecco che ti inventano l'alternativa, l'energia nucleare. Mamma, papà, Antonio, state ma sento buoni che da Newton inventato questo nucleare cadda girare la girandola a ruota innanzi alla bicicletta, sempre quello sistema, cadda carica la dinamo. State ma sento buoni che è il nucleare. Allora, mamma, papà, Antonio, in certe rocce che esistono proprio in natura c'è l'uranio. Vanno a pigliare l'uranio dalle rocce. Che male non ne fa? Pigliano st'uranio dalle rocce, c'è una grande cava di uranio a nord di Milano, un paese che si chiama Novazza, Valgoglio. C'era la regione Lombardia che ha dato i diritti per scavare uranio a una società australiana che si chiama Metex. Poi però hanno capito l'errore, i cittadini sono incazzati, hanno bloccato lo scavo. Insomma, dovunque c'è uranio c'è pericolo. L'alta velocità, sia quella ferroviaria che quella da strada, sotto ci sono parti piene zeppe di uranio. Quando scava l'uranio, uranio contro uranio, è pericoloso. Poi ci sono grandi cave di uranio sul delta del Niger. C'è petrolio e uranio. E allora, pigliano quest'uranio dalle rocce, che male non ne fa. E lo lavorano e lo vanno a calare dentro la stofarola dove tu fai la pasta. Lo calano dentro questa stofarola, 7, 8, 10 barre di uranio. Una volta che l'uranio sta dentro queste stofarole, mettono il coperchio sopra e la tappano la stofarola, cioè la bullonano, come se diventasse una stofarola a pressione. L'uranio, una volta che sta là sopra, sente che fa, ma l'uranio dentro la stofarola fa cazzotti. Uranio contro uranio, barra contro barra, fa cazzotto, si spacca, si riscalda, si spacca, si riscalda, si spacca, si riscalda. L'uranio è una delle poche cose che esiste in natura che si ingazza solo. Si ingazza, si riscalda e nell'arco di 2 minuti, mamma, papà, l'uranio arriva a 2000 gradi centigradi. 2000 gradi, uè, ma. Mo tu pensi che quando tu cucini la pasta, l'acqua arriva a 100 gradi, cupirsi, schizza come un grill. Immaginate a 2000 gradi, mia mamma, beh, l'uranio arriva a 2000 gradi, un cupirsi e zomba veramente come un grill, va a pangiello, l'uranio tutto pangiello, però non fa in gelo. L'uranio l'hanno saldato il coperchio con la stofarola. E poi in Italia sta stofarola si chiama reattore. Ah, chiama il reattore, papà. Allora, questo uranio, mamma, stiamo a sentire buono, hanno fatto un buco sopra la stofarola, sopra il reattore, bravo, sopra il reattore, ma un buco sul coperchio, e hanno collegato un tubo d'acciaio, e il vapore acqueo a 2000 gradi lo portano direttamente sotto la girandola che deve girare per caricare la dinamo. Immagina sto vapore acqueo, esce a 2000 gradi dalla stofarola, incontra le pale della girandola verso l'alto, via, immagina a 2000 gradi come fa a camminare veloce, veloce, veloce, a 2000 gradi gira, gira, carica la dinamo si carica, via, l'elettricità nelle case delle persone. E mia mamma era, mamma che cosa bella che lo studio, guarda Nico, peccato che i tempi non si poteva studiare, ma tu veramente con secondo hai per le scuole. Perché non vai per le scuole elementari a contare secondo? Sono bella da sapere secondo. Allora mamma, mo stiamo sempre buono. L'uranio, dentro la stofarola, per 2 anni sta sempre a 2000 gradi. Tu pensi che meraviglio, ma 2 lunghi anni, 800 giorni, schizza sempre vapore acqueo a 2000 gradi, a 2000, ininterrottamente senza fermarsi mai. 2000 gradi per 800 giorni. Vapore acqueo che fa girare la girandola. E mia mamma, mamma, mamma, mamma, che cosa bella che è l'uranio. Se l'angappa una cascetta d'uranio che viene da Saluggia, la mettiamo in 2 scarte a bagno e stiamo buoni 7-8 anni. Sì, mamma, mo che venga da Saluggia te la porto. Ma stiamo a sentire buono, ma l'uranio dentro la stofarola si riscalda, arriva a 2000 gradi, ma dopo 30 secondi che si è riscaldato, genera 250 elementi radioattivi che si chiamano plutonio, cesio, tungsteno. Roba che ti fa venire il cancro, la leucemia in 448, elementi che stanno là, nel reattore, nella stofarola. E mia mamma, mamma, mamma, che pericolo che è su Rani, leva lei, non me ne portiamo che viene da Saluggio con lo scartabaglio, un faccia conzata a Luigino, ma non te ne porta, mamma, mo stiamo sempre buono, mamma. Questo uranio, per 2 anni, dentro al reattore, sta sempre a 2000 gradi, ma dopo 2 anni non ce la fa più. Si invecchia, si stanca, non schizza più a 2000 gradi. E allora tocca trovare, cambiare l'uranio, va. Qualcuno che apre cubierci, piglia l'uranio vecchio, morto, e mette l'uranio fresco, giovane. Però mamma, il problema è che apre cubierci, perché dentro al reattore non c'è mica più solo l'uranio come prima. Ci sono altri 250 elementi radioattivi che fanno venire il cancro, la leucemia. Ecco perché quando gli ingegneri nucleari, gli operai, i lavoratori devono cambiare l'uranio vecchio col nuovo, lavorano proprio in un'altra stanza. Il reattore sta tutto nel cemento armato, nel ferro, solo solo, lavorano con le pinze telescopiche. Ce n'è una a Latina, sul lungomare, si può ancora vedere, sto reattore enorme. Non si mette a respirare quella roba quando leva l'uranio vecchio col nuovo, sei fottuto. Voi vi ricordate quello che è successo a Chernobyl? A Chernobyl, il 26 aprile del 1986, non è successo nient'altro che il reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl, pieno zeppo di 250 elementi radioattivi che avevano lavorato per più di 2 anni, la notte, dopo l'una di notte, mentre tutti i bambini di Chernobyl dormivano, questo reattore, boom, esplose. E i 250 elementi radioattivi andarono nel cielo di Chernobyl e poi piano piano si posarono sugli alberi, sopra l'erba, nell'acqua, sopra la frutta. Ecco perché molte persone a Chernobyl morirono subito subito di cancro e di leucemia. Ecco perché molte mamme partorirono bambini deformi. Ecco perché ancora oggi molte mamme dopo 20 anni continuano a partorire bambini deformi. E ancora non sappiamo quello che deve succedere, ma papà, nel resto del mondo, perché quella nuvola sopra Chernobyl era una notte piena di vento e il vento se la portò a spasso per l'Europa. E la radioattività 7 giorni dopo aumentò di colpo in Germania e poi 9 giorni dopo in Austria, Ungheria, poi arrivò fino alla Francia, alla Svizzera, in Italia settentrionale, centrale, meridionale, tanto che il miele italiano del 1987... è 5 punti più radioattivo del miele del 1986, perché le api durante quell'anno, un goppi sciur, si erano mangiate qualcosa che non si viene a mangiare. E poi 20 giorni dopo la radioattività aumentò addirittura in Grecia, in Libia. E mia mamma era, e fammi capire una cosa, Nico, e se barre d'uranio tanto pericolose della stofarola, quando le vanno a lavare per metterle nuove, le vecchie A dove vanno a Bertusac fanno i mesi di Chernobyl? Brava, ma mo ti dico a dove vanno a mettere i vecchi. Allora, mamma, secondo la magistratura di... Allora, pigliano le barre nel reattore, no? Quelle vecchie. Ma con, mica con le mani, che ci sono 250 elementi radioattivi, le pigliano con le pinze telescopiche, con i computer. Pigliano ste barre e secondo la magistratura italiana, molte delle barre italiane sono addirittura finite in Somalia. La magistratura di Roma ancora indaga e dice che sospetta che Ilaria Alpi e Miriam Krovatin, due grandi giornaliste del TG3, sono stati uccisi perché hanno filmato dove piazzavano in Somalia, sotto una strada in costruzione a Bosaso, barre radioattive italiane. Se invece vogliono fare le persone serie, pigliano queste barre di uranio e le vanno a mettere dentro grandi piscine, alte 30-40 metri, e dentro queste piscine si raffreddano queste barre. Quando io e mamma facevo lo scopatore, no? Sopra la Trisaia di Rotondella, nel deposito nucleare che abbiamo in Basilicata, scopavo torno a sta piscina e vedevo 82 barre di uranio, blu, azzurro, che pareva il demonio. Scopavo e le guardavo. E mia mamma, mamma mia, figlio bella, non è che te... Perciò sei venuto a andare morto. Ti è successo qualcosa in coppa alla piscina? Ti è respirato qualcosa di sì, Chernobyl? Dimmi la cosa con me. Mamma, non ti preoccupare, non mi sono respirato niente, tranquilla. Io quando andavo a scopare con la piscina, scopavo con la maschera, i guanti, la tuta, che quando scopavo mi sentivo di scopare in coppa alla luna. Insomma, basta, ma falla finita. Dice mia sorella Antonietta che da là dietro, settato sopra una seggia, ha seguito il racconto facendo la copertina per il figlio che sta per nascere. La copertina rossa, e mia sorella dice: falla finita, non vedi che mamma e papà si stanno preoccupando, basta, falla finita, sei barre di uranio, per quanto tempo stanno in questa piscina? Mo ti dico Antonia, mamma, papà, state tranquilli, non mi è successo niente. Allora mamma, papà, pigliano ste barre di uranio dalla piscina, dopo un po' che si sono raffreddate, che stanno a 2000 gradi, le pigliano e le mettono nei fusti d'acciaio con uno spessore di 50 centimetri, ficcano in questi fusti d'acciaio e vanno a portare questi fusti d'acciaio lontani dall'acqua, soprattutto lontani dall'acqua, perché se l'acqua si avvicina ai fusti, anche se la radioattività è dentro ai fusti, l'acqua si contamina, diventa radioattiva, poi va nelle falde acquifere e contamina le falde acquifere. Ecco perché questi fusti vanno tenuti lontani dall'acqua, soprattutto lontani dall'acqua, e questo materiale, queste barre sono radioattive per 150.000 anni. 150.000 anni di radioattività. Sì, mamma. 150.000 anni. Per 150.000 anni le ha guardate che non ti può distrarre manco una seconda. Vanno prese e vanno portate lontane dall'acqua. Pensate che vanno portate lontane dall'acqua queste barre, e noi in Basilicata abbiamo 82 barre di uranio a 5.000 metri dal Mar Ionio. Queste perché vanno lontane dall'acqua. E a Saluggia hanno 53 barre di uranio a 50 metri dalla Dora Balta, un affluente del Po, e queste perché vanno lontane dall'acqua. E dove vogliono fare il deposito unico di scorie nucleari italiane? Qua, a Scanzano Ionico. Oh, l'acqua del mare dista 300 metri, tanto che è intervenuto Rubbia, un grande scienziato, e ci hanno detto a Rubbia, ci hanno detto, Rubbia ha detto al telegiornale: ma voi siete pazzi a mettere questi fusti radioattivi così vicini all'acqua, a 50 metri dal fiume Cavone, in una zona altamente sismica, che oggi è qua e domani le barre di uranio, c'è un terremoto, fra 100.000 anni se ne vanno in mezzo al mare, e là i terremoti, ce n'è uno pericolosissimo ogni 10 anni. Ma voi siete completamente pazzi, ha detto Rubbia. Queste cose le dovete portare lontane dall'acqua. Anche se erano pazzi allora, sono pazzi tuttora. Perché pensate che Rubbia voleva fare un esperimento alla casaccia di Roma. A nord-est di Roma c'è un deposito nucleare, no? C'è un reattore nucleare ancora in funzione, si chiama Triga, gestito da giovani universitari della Sapienza. Gli unici geni che, nonostante la Gelmini, proprio non riuscimmo a liberarcene. Stanno là attorno a Triga. E questo Rubbia voleva provare a bruciare dentro il reattore un centimetro quadrato di scoria per tentare di abbassare gli anni di radioattività. Ma questi esperimenti Rubbia li viene a fare lontani da Roma, sono finiti i soldi, non l'ha fatta, ma lo dovevo andare a portare lontano da Bracciano. Là c'è l'approvvigionamento idrico a tutta la città. Lo doveva portare lontano dall'acqua, ma quello se ne importa dall'acqua. Pensate, mamma, papà, che a questa casaccia di Roma c'è un tubo che piglia l'acqua radioattiva e la getta, come a noi in Basilicata, la getta nel torrente Arrone. E la regione Lazio, quando c'erano i fascisti, ha detto: ma sì, pazienza, è così tanto il liquido del torrente Arrone che i liquidi radioattivi si mescolano insieme a tutta l'acqua del torrente. Ma io vorrei portare quelli della regione o quelli dell'APAT di Roma su questo torrente a maggio, a giugno, quando non piove, a luglio, ad agosto, è una scolatura d'acqua e i liquidi radioattivi stanno là in mezzo ai campi agricoli. Che vergogna. Che vi stavo dicendo? Mi sono proprio completamente scordato. Di che vi stavo parlando? Ah sì, dei fusti, no. Allora, che queste barre vanno messe lontane dall'acqua per 150.000 anni, no? Però puoi fare pure un'altra cosa. Invece di mettere lontane dall'acqua, pu puoi prendere le barre e le puoi riprocessare. Cioè, puoi prendere la batteria vecchia e ci metti la batteria nuova. Ma vi dico come si riprocessa una barra. Mamma, papà, state ma sente. Allora, pigliano la barra di uranio, ma non con le mani, con le pinze telescopiche, ci sono 250 elementi radioattivi. Bene, pigliano questa barra, la fanno piezzi piezzi, la tagliano, il pezzo più piccolo è 1 cm². Quando l'hanno tagliata, questa barra la mettono nell'acido nitrico. Nell'acido nitrico si mescola, diventa tutta una melma. Quando è diventata tutta una melma, la ficcano dentro un frullatore gigante di vetro, enorme. E dentro questo frullatore la barra di uranio, che era allo stato solido nella piscina, è mai diventata tutta una melma, dentro il frullatore, così la velocità che frulla, frulla, frulla, frulla, che si frulla tutta questa barra e dallo stato solido passa proprio allo stato liquido. E questi 250 elementi radioattivi che erano allo stato solido, ora sono allo stato liquido e si vanno a piazzare proprio in base al peso specifico che hanno. Quello tipo l'olio sul vino. L'olio è più leggero del vino? Stango puvine. L'olio è più pesante, il vino è più pesante, si mette sotto. Ah, così l'oro, no? I 250 elementi radioattivi, sotto sotto va il plutonio. È molto pesante, il plutonio è il più pesante. Un goppio l'uranio, poi il cesio, il torio, tutto l'altro appresso. Sotto sotto, mamma, c'è il plutonio, azzurro, che pare il demonio, il plutonio. Oh, ma, col plutonio si fa la bomba atomica, eh? Mamma, pensa ma che per fare la bomba che ha semidistrutto Nagasaki, 3 kg di plutonio, 3 kg. E papà, sai quante centrali atomiche attive abbiamo nel mondo? 441 centrali atomiche attive. Mamma, sai quante tonnellate di plutonio fabbrichiamo in un solo anno nel mondo? 2000 tonnellate di plutonio in un solo anno. 2000 per fare la bomba che ha semidistrutto Nagasaki, 3 kg. E mia mamma, mamma, mamma, mamma, che pericolo che è su plutonio. Se qualcuno sa roba una cascetta di plutonio, veramente può stormare un mondo intero. Ma non c'è bisogno di arrobartelo, plutonio, mamma. Oramai chi è che non tiene un po' di plutonio? O te ne cane e porci. T'accattano una cascetta di plutonio, te la metti nella cantina, nu vicino, ti fa ingazzare, o piglia plutonio, va a fangulo. C'è manca bisogno di rubarlo. Te lo puoi proprio comprare, ma c'è un grande commercio internazionale di plutonio. Mamma, papà, voi non so se. Ecco perché vogliono bloccare l'Iran che non ha da fare le centrali atomiche, no? Perché poi parte il commercio del plutonio pure da quelle parti, e là so cazzo se parte là. Ma. Allora, mamma, come ti ha già fa capire questa cosa? Allora, il plutonio, no? Ottenendo veramente cane e porce, te lo puoi comprare. E tu pensa, non so se vi ricordate che nel 75 ci furono due grandi giornali, L'Espresso e Panorama, che parlarono di un traffico di plutonio partito proprio dalla Basilicata, dal deposito nucleare di Rotondella. Oh, la magistratura di Roma, di Potenza, il giudice Galante, Basentini, ancora stanno indagando. Che all'epoca, no, diceva l'Espresso e Panorama, che Saddam Hussein, che all'epoca andavamo d'accordo, Saddam Hussein ci dava petrolio in Italia a basso costo e noi italiani in Basilicata ci imbaravamo a lui a fabbricare il plutonio, a riprocessare la barra per prendere il plutonio, hai capito? Mamma, Era venuto qua in Basilicata per imparare a costruire la bomba atomica, Saddam Hussein. E ti ricordi che arrivarono 131 ingegneri dell'Iraq? Che ci sono ancora le fotografie, la nonna ci fittò l'appartamento a Novasiri, 131 ingegneri dell'Iraq col timbro di Saddam Hussein. Ma ti ricordo o non ti ricordo? E mia mamma, non mi ricordo se è dell'Iraq, sai, c'è quando veniva in sala Trisaia, vedi tanta cristiana che scende con una faccia brutta come sibillata che si vedono per la televisione. Erano iracheni, mamma, come a noi, ma erano iracheni, che erano venuti in Basilicata per sembrare a costruire la bomba atomica. Che poi se Saddam Hussein sull'imbarà a costruire la bomba atomica in Basilicata. In Basilicata si è potuto imparare a costruire un po' di salsiccia. Siamo bravissimi, veramente. La salsiccia, facciamo una salsiccia veramente da paura. Tanto che la salsiccia si chiama lucanica, come i lucani, no? Si è potuto imparare a Saddam a fare un po' di salame, un po' di vino, biscotti. Ma no, certamente la bomba atomica. E infatti Saddam Hussein non si è imparato a fare la bomba atomica. Ce l'hanno pertusata l'Iraq, pizzico pizzico, non hanno trovato mancano tante bombe atomiche, niente. Però pare che nell'ultimo rifugio di Saddam Hussein, sotto una trave, hanno trovato in coppa una canna 50 kg di salsiccia lucana. Ci hanno bombardato tutta quanto, povero Cristo. Insomma, a questo punto del racconto mio padre si alzò dalla sedia, mi venne vicino vicino, mi disse: Nico, tu ne contavi tante cose sull'uranio, su plutonio. Io voglio sapere perché sei venuto in terra morta prima. Tu tieni qualcosa, Nico? Dimmi la cosa con me che sotto padre ti posso aiutare. Tieni qualcosa? Ma no, papà, non tengo niente. State tranquillo, papà. Proprio niente, niente. Pensa per te, papà, che tieni i polmoni neri come la notte, papà. A proposito di polmoni neri, papà, che fumi come un pazzo. Sai quanto pesa un pacchetto di sigarette vuoto? E mio padre, mamma, che ci azzecca nei sigarette. Dimmi perché sei svenuto, falla finita. Papà, l'ultima cosa, quanto pesa un pacchetto di sigarette vuoto? Ma che può pesare 10 grammi? Bravo papà, ma prova a pensare a un pacchetto di sigarette pieno zeppo di uranio. Se tiene d'uranio, quanto può pesare? Mio padre, ma se tiene sta schifezza per 100 grammi? Papà, un pacchetto di sigarette pieno zeppo di uranio arriva a pesare 50 kg. Sì, ma 50 kg. L'uranio ha un'alta densità sezionale, quasi come il plutonio. Allora, l'uranio, poiché è assai pesante, papà, ecco perché proprio per questo motivo gli eserciti occidentali, papà, hanno deciso di utilizzare bombe e proiettili all'uranio. Perché se tu ti porti un pacchetto di sigaretta, te ne porti una trentina, che pesano 50 kg l'uno d'uranio, in coppa un aereo, e stai là in coppa l'aereo quando ti trovi a portare un po' di democrazia qua e là nel mondo, no? E sganciano pacchetti di sigarette a 3-4 mila metri d'altezza, l'uranio pesa 50 kg a 3 mila metri, arrivano tonnellate e tonnellate, che il carro armato che è sotto proprio si taglia come il coltello taglia il burro. Zium. E quello che l'uranio non fa con le schegge lo fa con la polvere che emana, perché l'uranio va a terra, si riscalda, genera elementi radioattivi. Certo, nel reattore sta tutto chiuso a pressione, là è all'aria aperta, ma se un bambino non muore per una scheggia, muore per la polvere che si respira. Che poi bisogna pensare pure ai militari. I militari italiani che partono per la patria e muoiono per la polvere che si respirano di uranio. La patria, vabbè, mi è scappata la parola patria. Non hai mai visto un militare che è partito per la patria? Tutto partito come a me, per soldi. Io guadagnavo 10 milioni al mese, i caporali 12. E chissà i colonnelli e i generali. Papà, voi vi ricordate che mi cacciarono dal deposito nucleare? Vi ricordate? Mi cacciarono, sbattuto fuori. Mi mise a parlare del Situb, della casaccia di Roma, mi mise a parlare di Saluggia, di Trino, del Garigliano, e tutti questi dei poligoni di Tira vicino Latina, la Maddalena, Villa Puzzo. Mi mise a parlare di queste cose, mi cacciarono. A fangulo, licenziato. Licenziato a 40 anni e non sai che fare, mi si è parlato di tutto questo licenziato, mi si è parlato di Natale De Grazia. Natale De Grazia è un comandante, un capitano della Marina Militare, Capitaneria di Porto, e questo Natale De Grazia era quello che aveva trovato le navi affondate nel Mar Tirreno, cariche zeppe di rifiuti radioattivi e tossici. Natale De Grazia fu ucciso Una mattina andavo alla Spezia a vedere da dove era partita la Jolly Rosso, una Jolly Rosso che a Mantea non riuscirono ad affondarla, rimase là sopra la spiaggia e presero quei fusti pieni zeppi di rifiuti e li andarono a nascondere nel torrente Oliva, che là attorno al torrente Oliva la mortalità è aumentata del 26%. E nessuno dice mezza parola. Insomma, sto Natale dei Grazie andava, mi si a parlare di lui che andava alla Spezia a vedere da dove era partita la Jolly Rosso. Si prese un caffè sulla Salerno Reggio Calabria e morì. La magistratura chiuse subito l'inchiesta. Ma la moglie continua a dire che il marito fu avvelenato. La moglie non ha mai avuto i risultati dell'autopsia. Dice che fu avvelenato perché avevi trovato le navi. Mi mise a parlare di Vincenzo De Mare. Vincenzo De Mare era un camionista di Policoro. Questo Vincenzo De Mare fu sparato una mattina e la moglie continua a dire che il marito fu sparato perché la notte era camionista e alla notte qualcuno ci è riuscito a bussare a casa e ci aveva detto: tu mi devi pigliare questi fusti e me li devi andare a nascondere là, e lui si rifiutò e lo spararono. Mi mise a parlare di Francesco Fonti, il 'ndranghetista calabrese, che ha detto proprio lui stesso che ha preso 600 fusti da radioattivi dalla trisaia di Rotondella e li ha portati, 100 l'ha mandato per la Somalia e 500 li ha nascosti nel torrente Vella di Pisticci, sotto al torrente. Mi mise a parlare di queste cose, che in Italia non ne devi parlare queste cose. In Italia ha parlato il Grande Fratello, ha parlato incantesimo, la trasmissione di pacchi, devi tremare per la trasmissione dei pacchi, non per le barre radioattive. Se vinci o non vinci, a taffangulo, che l'Italia si è tutta tale e quale. Mi mise a parlare di cose che non se ne viene a parlare l'Italia, e mi cacciavano dal deposito nucleare a 40 anni, senza famiglia, senza figli, senza lavoro, senza niente, ero disperato. No, la terra non la volevo zappare, papà. Non sapevo che fare. E allora mi arruolai nell'esercito italiano, partii volontario per la Bosnia e il Kosovo, papà. Ti ricordi com'ero bello con la divisa militare della Bosnia e il Kosovo, papà? Ti ricordi com'ero bello che mi mandarono a imparare il mestiere di militare a Ghedi e a Aviano, vicino Pordenone, vicino Brescia, dove ci sono, in queste caserme, per la prima volta nella mia vita ho toccato l'uranio con le mani. Noi italiani, soldati, toccavamo l'uranio a mani nude, coi pantaloncini corti. L'americano arrivavano con la maschera, i tuto, i guanti, che sapevano del pericolo. A noi non ci avevano detto niente. Là mi imparai a toccare l'uranio. Mamma, papà, tra Aviano e Ghedi ho visto con gli occhi miei 90 bombe atomiche sul suolo italiano. La Costituzione italiana dice che è vietato tenere le bombe atomiche sul suolo italiano. Noi ne abbiamo 90 e nessuno dice mezza parola. Ma che vergogna, papà. Ti ricordo com'ero bello nella divisa dell'esercito italiano? Ti ricordo, non ti ricordo, pesavo 63 kg, papà. E sì, che mi ricordo, ma io non volevo che tu andavi volontario in Bosnia e Kosovo, ma tu caparbio volesti andare, caparbio. Papà, tu sai quanti proiettili all'uranio spararono gli americani solo tra il 1994 e il 1995? Papà, 11.000 proiettili all'uranio. Solo su Sarajevo spararono 5.000 proiettili all'uranio. Tanto che su Sarajevo la mortalità tumorale in un anno è aumentata del 70%. E sai, mamma, tra tutti i soldati italiani quanti si sono ammalati di cancro? 1.861 soldati italiani ammalati di cancro. 1.861 militari ammalati di cancro. E l'incubazione dell'uranio è lenta, sono passati solo 10 anni, chissà che deve succedere ancora. Papà, 58 soldati italiani già morti di cancro, 58 morti, 1861 ammalati di cancro, e nessuno dice mezza parola in Italia, nessuno capì niente. Mia sorella sospettò, dice: ehi Nico, non è che ti è successo qualcosa pure a te per se Bosnia? Niente, non mi è successo niente, state tranquillo. Mia mamma neppure capì, povera mamma, non capì mia mamma che tra i soldati italiani ammalati di cancro c'era pure il figlio, c'ero pure io. Tenevo un cancro al fegato. L'unico che capì la verità fu mio padre. Era seduto su quella sedia, mi sorrise. Ed è l'unico sorriso che mi ha fatto in tutta la sua vita. Mi sorrise, mi venne vicino, prese dalla sacchetta la lettera che stavo scrivendo a zia Maria 2 ore prima. Mi diede quella lettera e mi disse: te Nico, scrivigli la lettera, tu che sai scrivere. Nico, domani c'è lo sciopero di tutta l'Italia contro il nucleare, domani 23 novembre 2003. Ammai pure noi allo sciopero, è domenica e ammai tutti insieme. Pur mamma e Antonietta tutta là. A Ma scrivi uno bello striscione, lo scrivi stessi io striscione, non va niente che so alfabeto. Strazio non lo solo io, anche per la pittura nevra e lo scrivo. Tu domani mattina ti alzi e lo trovo fatto. E porti tu tamburo e la fisarmonica, che domani mattina dobbiamo suonare da che nasce il sole fino a che muore il sole. Ma facciamo una cosa, Nico. Mangiamo una piatta di pasta e diamo un giorno a dorma, perché la giornata di domani sarà lunga. La mattina all'alba eravamo tutti svegli. Mia mamma, mia sorella, mio padre, pure mia nonna. No, in quel momento mia nonna non vedeva formica in coppa alle mattonelle. Eravamo tutti là. Mio padre teneva lo striscione sotto il braccio. Che cazzo aveva scritto mio padre sotto lo striscione? Che era analfabeta completo. Mio padre, per quello sciopero di tutta l'Italia contro il nucleare, voleva partire proprio dalla tubatura in mezzo al mare. Arrivemmo là, mamma, quanta cristiana cangerna. Erano arrivate da tutta l'Italia, da Latina, dal Garigliano, dalla Casaccia di Roma, da Caorso, da Trino Vercellese, da Saluggia, tutti là a dire no al nucleare. E in mezzo a quel bordello pazzesco di tutti quelli cristiani, mia sorella e mia mamma aprirono lo striscione che aveva scritto mio padre. Mio padre si ficcato sotto lo striscione, cinico, forse pigli un tamburo la fisarmonica che amma suona. E ci ficcammo sotto allo striscione e io e mio padre cominciamo a suonare, io il tamburo, lui la fisarmonica, suonavamo sotto allo striscione, ma la cosa che veramente facevamo io e mio padre, parlavamo tutte le cose che non ci eravamo potuto dire per tutta una vita, ora ce la stavamo dicendo sotto allo striscione, in mezzo a tante cristiane, con una tarantella di Matera. E mio padre, suonando la fisarmonica, io il tamburo, mi diceva: Nico, state tranquillo, che se ti succede qualcosa ti aiuto io. Sì, sono un agricoltore 73 anni, ma se ti succede qualcosa non te lasse, Nico. Ti porto in un ospedale dell'Italia settentrionale, Nico. Ma che padre ingrato che sono stato, Nico. Non ti ho saputo da niente a te, niente, niente. T'ha già mandato alle peggio parti, t'ha già mandato a fare la guerra, t'ha già mandato in deposito nucleare, t'ha già dato tutte le cose più brutte della vita. Ma che padre ingrato che sono stato, non t'ha già saputo regalare un poco di studio, un poco di felicità, un poco di qualcosa, niente. Che padre ingrato che sono stato, non t'ha già saputo dare un lavoro, non t'ha già saputo dare niente. Come a me, chissà quanti padri per tutta l'Italia che sono disperati, che non hanno saputo dare niente ai figli. Che padre ingrato che sono stato, Nico. Papà, ma non ti preoccupare, che tu non tieni colpa di niente. Mi girai e mio padre piangeva, ma veramente piangeva. E le lacrime finivano sopra il mantice della fisarmonica. Si bagnava il mantice e la musica cambiava. E mio padre aveva una rabbia negli occhi che, se in quel momento lo Stato italiano fosse stato una pietra, mio padre avrebbe preso quella pietra e l'avrebbe spaccata coi denti. Poi mi venne voglia di leggere quello che mio padre aveva scritto sopra lo striscione. Feci un passo avanti, mi girai. Mio padre aveva scritto sopra lo striscione: perché lo Stato nacide i figli. Mio dopo, il governo Berlusconi, dopo quella manifestazione, cancellò il nome di Scanzano Jonico dal decreto. Mica ha capito il governo che l'errore è fare il deposito. Dovunque lo va a fare è un errore, pure se lo fa al Garigliano, a Latina, a Caorso, a Montalto di Castro, è sempre un errore. Perché riaprire il nucleare, che l'Italia ha detto no al nucleare nell'87? Perché? Perché vogliono fare i soldi. O c'è qualche cosa sotto? Fatto sta che il 29 novembre 2003 i muri della Basilicata di mezza Puglia e mezza Campania furono tappezzati da un manifesto. Era troppo bello quel manifesto. Io ero a Matera, me lo feci dare da due ragazze che l'appezzavano al muro. Arrivai a casa con questo manifesto. era ora di mangiare, aprì il manifesto per farcelo leggere, tanto mio padre sapeva leggere, avevi scritto striscione, aprì lo striscione e tutti che leggevano, mia mamma, mio padre, mia sorella Antonietta, tutti là a leggere, e sul manifesto c'era lo stemma di Forza Italia e sotto c'era scritto: Scanzano ha vinto grazie al popolo lucano e alla sensibilità di Silvio Berlusconi. Scusate se non esce arreso sul manifesto, ma mi vergogno. Oh, tutti che leggevano, mia mamma, mio padre, mia sorella Antonietta, là, tutta lei, addirittura mia nonna. Come avere la Madonna, mia nonna che leggeva il manifesto. Mia nonna che aveva avuto 4 ictus che l'avevano rintronata del tutto, che non faceva altro che vedere formiche in coppa alle mattonelle. Mia nonna analfabeta di partenza, che appezzava lui, ci allungava il collo a leggere il manifesto, ce lo portai proprio sotto sotto per farcelo leggere ancora meglio. Mia nonna lesse quel manifesto e mi disse: Nico, chi ha scritto il suo manifesto tene la faccia come un culo. La mattina del 29 novembre del 2003 eravamo tutti là, no? Attorno alla tavola, e la televisione, il TG1, fece vedere le immagini del vicepresidente del Consiglio Fini, che proprio quella mattina del 29 novembre 2003 era andato per la prima volta nella sua vita in rappresentanza del popolo italiano a Gerusalemme, stava nella sinagoga insieme agli ebrei, teniu cuplin dell'ebrei in testa, che lo vide tutta l'Italia con cuplin in testa. E a un certo momento, intervistato al TG1, che lo vide tutta l'Italia a mezzo busto, disse: il fascismo è il male assoluto. Mio padre ci chiede la testa in due piatto e disse: beh, vabbè, mamma, allora dell'Italia non si capisce più niente. Proprio in quel momento al vicepresidente del Consiglio Fini ci suonarono l'inno d'Italia. E lui era tutto là, il nostro vicepresidente del Consiglio Fini, tuosti cuguapline dell'ebrei in testa, che si ascoltava l'inno d'Italia. Lo cantava anche, un poco. Noi eravamo tutti là, attorno alla tavola. Mia mamma aveva appena scolato il reattore della pasta e noi eravamo tutti là ad aspettare che l'inno d'Italia, l'inno della patria, finisse. Avevamo la mano sul petto. Mio padre aveva uno sguardo, voleva dire: ma che patria è mai questa che vuole seppellire i vivi? E noi eravamo tutti là e l'inno d'Italia suonava e Fini lo cantava. Podobom, podobom, podobom, pom, pom, pom, pom. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria? A pastere da indui piat, u fumlizza della pasta, andavo contro le lampadine, avina a fam mio, quando cazzo finisce sinno? Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò.